cenno d'intesa con i suoi collaboratori, si comincia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao a tutti, Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Veronati in regia, Daniele Bonamici in redazione. Tra poco, ovviamente, sto aspettando Pardo che mi raggiunge tra un attimo. Apriremo tutte le pagine possibili sul calcio con le partite che abbiamo visto ieri. Eccolo qua, entrare in contemporanea stereo con l'inizio del programma. Ma prima, mentre Pardo si accomoda, io voglio fare due chiacchiere con Flavio Vanetti, notissimo inviato del Corriere della Sera, per dirimere questo, per provare a capire qualcosa di questo mistero Alonso. Ciao Pierluigi, buongiorno. Ciao, come va? Ciao, bene. Alonso bene. Meno. Buongiorno Flavio. Buongiorno a voi, grazie per il notissimo, hai capito qualcosa in più? Abbiamo visto le foto di Alonso, molto tirato, sorriso, il pollice alzato, ma hai capito qualcosa in più sulle sue condizioni, su quello che è successo? No, direi che il mistero continua, perché Alonso resta ancora in ospedale, non è stato nemmeno dimesso stamattina come sembrava fosse possibile. Gli accertamenti proseguono, credo che in questi casi sia anche opportuno avere un eccesso magari di prudenza, ma questo non fa altro che alimentare il sospetto che proprio non sia stata una cosa così banale come si è tentato di dire. Soprattutto resta sempre molto risibile, a mio avviso, la giustificazione del colpo di vento che avrebbe buttato fuori pista un pilota così esperto. Secondo me, la mia impressione, perché io non ero da tutt'altra parte, non ho visto nemmeno l'incidente dal vivo, quindi ormai so che forse abbia potuto vederlo, perché come noto i test e le telecamere non coprono tutto il circuito come durante i Gran Premi, quindi l'impressione a pelle è che possa essere stato un malore causato però forse da un qualcosa di anomalo sulla McLaren. Sono state varie tesi, la storia della scossa mi sembra la più improbabile, anche perché comunque questi abitacoli sono schermati, sono protetti per evitare appunto i rischi di scosse da parte delle varie unità elettriche che ci sono. Può essere, se è anche buttata lì l'ipotesi di un'esalazione che esce dalla batteria, queste batterie al litio, tra l'altro un fenomeno del genere si è verificato anche sugli aerei di linea, i Dreamliner, il Boeing 787, sono stati dei problemi con delle compagnie che avevano appunto queste aerei in linea, però in quel caso lì bisogna vedere probabilmente il fumo, quindi resta veramente misterioso. Io credo che, mi sono convinto che non sapremo mai la verità su questo incidente. Ah, rimarrà un mistero? Secondo me sì. Alla fine non ci sarà una spiegazione, e poi chiaramente Fernando tornerà a correre prima o dopo, adesso cercheremo di capire quando e come. Certo. Io credo che questa settimana non lo vedremo negli ultimi test, a questo punto è anche lecito porsi la domanda se ce la farà per l'Australia, perché a me risulta che il pilota sia comunque rimasto molto provato da questo incidente, ma anche moralmente, non solo sul piano fisico, ha preso veramente una paura che forse non aveva mai conosciuto. Lui non è il tipo che è abituato a uscire e a prendere botti, per cui questa è stata una novità nella sua lunga carriera, nella sua lunga esperienza, e soprattutto penso si sia intimorito per questa scossa alla colonna vertebrale che ha ricevuto durante l'impatto. Penso che quello sia l'aspetto più destabilizzante anche nella sua psicologia. Vedremo quali si è lasciato. Flavio, grazie. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Pierluigi, come stai? Bene, bene. Beh, insomma, credo che ci sia una componente psicologica. Non sono un esperto di Formula 1 e non lo diventerò a breve, però credo che questo aspetto sia fondamentale. Bisogna vedere quale traccia ha lasciato. C'è la famosa leggenda, no, che ogni figlio costa un secondo al giro, no? a un pilota di Formula 1, perché chiaramente si sviluppa un senso di responsabilità nei confronti non soltanto di se stessi ma anche degli altri, che fa sì che ci sia un po' meno sfrontatezza, e qui bisogna capire come reagirà di fronte a questa grande paura. Tanto gli unici segni più, se vogliamo rimanere sui segni di questa giornata del campionato di calcio, sono arrivati dalla Lazio domenica e poi dall'Inter e dal Napoli ieri, perché Juventus direi stabile, Milan pure in negativo, Fiorentina e Roma freccia verso il basso. gli unici segni positivi sono arrivati da questo. Beh, insomma, il Napoli vince le partite, questo non è un dettaglio. Ha degli attaccanti che segnano, ha una produzione offensiva che in questo momento è nettamente superiore a quella della Roma, e quindi la tendenza è molto chiara ed evidente, fermo restando che poi magari fra 2 o 3 settimane ci potrebbe essere un'inversione, però ad oggi la tendenza è questa qui. Mi pare che insomma anche nella notte senza Higuain, comunque con un avversario scomodo che ha avuto occasioni, non bisogna dimenticarlo, però insomma Napoli porta a casa 3 punti alla fine con una certa autorità, è un segnale, così come un segnale quello dell'Inter, perché comunque insomma è la notte di Kovacic che si sblocca, sì, è la notte di Icardi che si conferma, è la terza vittoria consecutiva, cosa e che non succedeva la notte, esatto, dei tempi 2012. Quindi insomma certo sono 3 partite, con tutto il rispetto, con il Palermo fra l'altro che ebbe quell'occasione clamorosa con Dybala, con l'Atalanta e con il Cagliari, non sono 3 test clamorosi, però insomma il campionato lo sappiamo è fatto di quotidianità, è fatto di riuscire a fare il tuo, che nel caso di una squadra comunque se non grande in questo momento, medio grande, certo, con obiettivi europei, significa vincere le partite con le squadre potenzialmente più deboli. L'Inter comincia a farlo e mi sembra che i segnali siano l'impressione è che mai come in questo campionato, per chi insegue la Juventus che marcia in maniera stabile, sia quella della continuità, e magari l'Inter la sta trovando. Invitiamo tutti a partecipare 800 24 00 24, e poi parleremo della Champions ossessione Juve. A proposito, gufi di tutta Italia convocati naturalmente come ogni volta. Gufi e juventini, insomma, tutti convocati. Derby di Genova che si giocherà, c'è cioè il mistero Eto'o. Sì. Hanno messo convocato. I teloni, eh? Ha messo, sì, pare che pagato. Oggi non stia piovendo, non vogliono più rischiare. Convocati. Hamsik cerca il tocco per Zapata, non è facile il controllo, vince il rimpallo, Zapata al limite con il sinistro, cade, la ritrova con il destro. Il tocco per Hamsik, Marek Hamsik, il raddoppio del Napoli al 25esimo, il terzo gol del capitano, Napoli 2, Sassuolo 0. In questo momento il Napoli è meglio della Roma? No, oggi abbiamo, credo, fatto una partita per essere meglio che il Sassuolo, dopo vediamo ancora. C'è ancora per Podolski, il cross in mezzo per Icardi, l'aggancio di Icardi, arriva poi Kovacic che si riprende l'Inter al primo minuto del secondo tempo, quinto in campionato per Kovacic. João Pedro fermato in maniera regolare però da Campagnaro, poi Kovacic inventa per Icardi, la finta di Icardi, ma che gol ha fatto Icardi, sono 14 in campionato, raggiunge Tevez al primo posto della classifica dei marcatori. Non credo che in questo momento sia ancora tempo di guardare la classifica, credo che noi dobbiamo continuare a giocare e a vincere se sarà possibile, a migliorare, perché questo è l'obiettivo. Poi insomma, se riuscissimo a vincere sempre sarebbe meglio, ma credo che questo sia abbastanza difficile. Comunque Pierluigi, riassuntone delle puntate precedenti, le ultime, cioè quelle dell'Inter del Napoli di ieri sera. L'Inter ha confermato, tu l'hai vista a Glasgow, sì, dal vivo, ha confermato un po' un problema d'ansia quando attaccata. Pensi che sia strutturale, cioè dovuto a un centrocampo in cui c'è solo Medella a correre e a rompere i giochi altrui mentre gli altri tirano, insomma, attitudini più offensive? Ma io penso che innanzitutto dietro la qualità sia discreta ma non eccezionale, sì. Quindi, anche se Santona ha migliorato sicuramente, però se penso per esempio alla partita di Glasgow, lì ci sono stati errori proprio anche banali, individuali, sì, sì, sì, che vanno ben al di là delle responsabilità o degli aspetti tattici. E mi sembra che davanti si stia sbloccando, mi sembra che stia comunque migliorando anche dal punto di vista difensivo. mi sembra una squadra completamente diversa rispetto a quella che aveva Mazzarri, questo va detto, secondo di me. Testa soprattutto? Beh, anche di uomini, nel sì, senso, insomma, torniamo al discorso che ho fatto mille volte, con Mazzarri non c'era empatia, non veniva troppo amato dai tifosi, per usare un eufemismo, troppo stimato dalla società, uh-huh. Un mercato così non gliel'avrebbero mai fatto, Mancini è stato bravo a farselo fare, si cominciano a vedere dei segnali. Secondo me l'Inter è seriamente candidata all'Europa League, sì. Quindi a poter arrivare fra le prime sei senza grandissimi problemi. È chiaro che c'è anche il viaggio europeo, che è un viaggio invece quello più complesso, perché dipenderà anche dagli avversari, dipenderà dai sorteggi, però insomma mi sembra una squadra che come valori di punta può giocarsela a livello di Europa League con tutti, poi questo non vuol dire che arriverà in fondo, insomma. Chiaro. E il Napoli mi sembra che insomma abbia trovato una sua strada. Certo che Zapatone guarda, Zapatone ha sempre segnato mica un gol ogni 87 minuti. Lui ha questo piccolo problema che ha Higuain davanti, quindi certo. Quello gli toglie spazio, ma anche l'anno scorso non aveva fatto male nelle occasioni in cui era stato chiamato col Genoa, a Marsiglia, insomma, mi ricordo una serie di partite nelle quali è stato decisivo. A me sembra che il Napoli dal punto di vista della qualità offensiva non sia mai stato in discussione. Certamente Gabbiadini adesso gli ha dato nuova energia e nuove soluzioni tattiche. Il problema del Napoli è che dietro tende a distrarsi tanto, ed è successo recentemente anche a Palermo, non è che è successo 4 mesi fa. Però insomma, la vera notizia è che il Napoli ha vinto qualche partita che nel passato con meno concentrazione non avrebbe vinto, e poi che la Roma si è involuta. Questo insomma, è un dato di fatto. Con 38 pareggi adesso... si retrocede, no? Quindi il pareggio certo. Conta poco. E adesso i punti dalla Roma sono 3. Ma dopo parliamo, abbiamo un ospite sul Napoli, poi ti dico chi. Salvatore da Catanzaro, buongiorno. 800-24, okay. 00-24, cominciamo subito a parlare con i tifosi, gufi compresi, juventini compresi. Tutti. Okay. Buongiorno a tutti. Dica. Allora, io volevo fare una domanda. Vabbè, se il Napoli, diciamo, già l'avete detto qui in studio, se diciamo continuando con questa... con questi risultati, con questa continuità, posso raggiungere il secondo posto. Però vorrei aggiungere una cosa. Io vorrei, il parere anche vostro in studio, che la società del calcio Napoli merita, secondo me, uno scudetto morale, perché con il bilancio a posto che ha la società e con il budget riesce comunque a essere sempre competitivo e a indovinare quasi sempre gli acquisti sul mercato. Quindi vorrei un parere vostro in merito a questo, perché se riesce secondo me a tenere questa squadra con l'allenatore Benitez, non cedendo i campioni come Higuain, puntellando il centrocampo, secondo me manca un regista, è un grande centrale difensivo, secondo me il Napoli poi potrebbe vincere lo scudetto nel prossimo anno. La squadra costruita sul vincere lo scudetto, io credo che la Juve in questo momento, un po' come era successo all'Inter negli anni di Mancini e di Mourinho, la Juve ha un vantaggio, una specie di rendita di posizione, cioè il fatto che per esempio se anche dovesse cedere Pogba adesso, e comunque gli arrivano non gli diciamo 100 ma gli arrivano 70-80 milioni che può spendere per prendere altri 3, cioè mi sembra che abbia veramente pochi problemi da risolvere in questo momento. Ci sarà poi il logorio fisico, poi ci sono le generazioni che cambiano, e certi giocatori invecchieranno, non ci sono dubbi, però in questo momento mi sembra che la Juve sia ancora favorita sul discorso scudetto in generale. Pensavo anche a com'è liquido il calcio, appunto, perché 2-3 mesi fa i tifosi del Napoli erano molto critici sul mercato. Dicevano che il mercato non era stato all'altezza, avevano anche ragione. La verità è che il mercato di estivo stato, del Napoli non è stato buono, e il mercato di gennaio è stato perfetto. Perfetto, perché la differenza, Strini sono due giocatori che hanno comunque cambiato la squadra per le loro potenzialità. Sì, assolutamente. E paradossalmente forse l'infortunio di Insigne, del quale si parla troppo poco, perché secondo me è stata una chiave importante che in qualche modo ha condizionato anche il calo di dicembre, l'infortunio di Insigne forse ha anche stimolato la società, quindi paradossalmente ha avuto un effetto positivo, perché poi ha portato ad accelerare su Gabbiadini, che per me, ripeto, da 2 mesi era il migliore che si poteva prendere, certo, in quel ruolo. Va a coprire 2 problemi che Napoli ha, ma poi anche di questo parleremo, se volete parlate voi 800-24-00-24, e sono Martens, che sta giocando una stagione molto opaca, ieri espulsione scellerata dopo 5-6 minuti che era stato messo in campo, e Caleon, che ha perso totalmente la strada, e qualche problema credo che lì ci sia. Mario Milano, buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo parlare, volevo portare una testimonianza riguardo la civiltà del calcio in Germania. Ho assistito in TV alla partita Stoccarda-Borussia Dortmund, dove un difensore dello Stoccarda a pochi minuti dalla fine, con la squadra che ancora poteva benissimo pareggiare la partita che a quel minuto era 2-1 per il Borussia, ha sbagliato clamorosamente un intervento difensivo, permettendo a Reus di segnare il gol del 3-1. E poi, piuttosto che essere contestato dai tifosi dello Stoccarda, è stato da loro addirittura abbracciato, tranquillizzato. Insomma, questo fa da contraltare a quanto successo invece a Roma con i tifosi del Feyenoord. I tifosi tedeschi, i tifosi juventini, state tranquilli, sono molto ma molto più civili di quelli olandesi, e parlano juventino. Sì, ma io penso che poi le vediamo. Situazioni debbano essere sempre viste, ci sono tifoserie più pericolose, altre meno pericolose, ci sono anche delle contingenze che fanno sì che in certe situazioni si creino problemi, voglio dire, le generalizzazioni sono sempre sbagliate, in assoluto, non può essere una persona, o in questo caso 500 persone che identificano un intero popolo, lo dico perché ho rispetto, perché l'Olanda tante volte l'abbiamo considerata un esempio da mille punti di vista, no? Abbiamo visto tante trasferte, per esempio, coloratissime dell'Olanda a livello di campionati europei e mondiali senza il minimo problema, e che cosa hanno da spartire con quelli che abbiamo visto l'altra sera? Quindi questo è evidente. Dire che vivono in maniera diversa il calcio dalle altre parti, lo diciamo tutte le volte, no? Sì, cioè, ma assolutamente. In una maniera. Guarda, sulla cosa dell'altro giorno, poi alla fine tutto si riduce alla. Perché era impossibile non farli arrivare a Piazza di Spagna, cioè, o chiudevi il centro cittadino, ma a quel punto facevi chi fai entrare? Solo i residenti, cioè, praticamente sarebbe stata una limitazione dello Stato di diritto di Schengen mostruosa. Insomma, la cosa bella dell'Europa è uno dei valori che ci portiamo dietro è il fatto che esiste mediamente lo Stato di diritto, che è la possibilità alle 3 di notte pure di farti una passeggiata a Campo dei Fiori. Il problema è che è quello che succede dopo. È che poi di fronte a una cosa del genere questi qui devono essere trattenuti in Italia, fermati, devono provare un minimo di paura perché la prossima volta non ci riprovano. È esattamente questo, sicuramente l'Italia da questo punto di vista invia in giro nel mondo un messaggio di un paese dove le cose sono consentite o comunque le conseguenze non sono così gravi, mentre chiedere ai tifosi della Lazio che si sono fatti un po' di giorni in situazioni difficili, e al di là del fatto che non è che insomma abbiamo visto le indagini, ma certamente non hanno fatto quello che hanno fatto i tifosi olandesi, no? Cioè, mi sembra che non ci sia proprio nemmeno lontanamente una possibilità di fare un paragone, perché lì sono stati fermati, ci sarà stata qualche scaramuccia, ma niente di simile alle robe disgustose che abbiamo visto l'altro giorno. Allora, ci fermiamo per la borsa. Silvio da Padova stia lì, 800 24 0024, numero verde, a tra poco. Ed è Duvan Zapata a schiacciare il tasto giusto, a mettere in funzione la giostra. Venite tutti al parco giochi dello stadio San Paolo, offre il mammone Duvan Zapata, spaventa grandi e piccini. Si ricomincia. Tutti convocati. Beh, un saluto da un grifone in fibrillazione, ma il derby più bello del mondo non merita un vostro commento. Abbiamo detto Timossi, poi avremo Bigon, diciamolo. Quindi rimanete Bigon con noi, non ve ne andate. Poi c'è Enrico Ruggeri. E poi tutti gli altri. Poi c'è Oscar. C'è la versione di Oscar. Poi c'è Barisò. Poi c'è la zanzara, il signor Cruciani. Dica. Bene. Silvio Padova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, prima, grazie per aver convocato i gufi. Certo, ci mancherebbe. Prima altro. Di gufare. Darei la vita di mia suocera per veder vincere la Juve, scrive Antonio da Piacenza. Forse anche per un pareggio, Adesso non voglio sapere che rapporti ci sono con la suocera, però. Magari se mi dà un WhatsApp, sì, le invio un video sulla suocera. Ah, va bene. Va bene. Quindi gufismo allora, spinto? Al massimo. Uh-huh. Quindi prima di gufare contro la Juve, rispondiamo all'ascoltatore napoletano, sì, che lo scudetto morale, sì, a Napoli bisogna darlo sempre. Perché? Dopo, per quanto riguarda puntellare, non si va a puntellare il centrocampo a Napoli. Che si puntella? Ma bisogna puntellare il sottosuolo, perché sennò crolla tutto. Insomma, vediamo, cominciamo a parlare del centrocampo da puntellare. E magari, visto per farla contenta, allora sai che facciamo? Parliamo della Juventus. né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. Non è assolutamente la partita della stagione, perché ne abbiamo ancora tante da giocare. E poi non è una finale domani, è un ottavo di finale che si gioca su 180 minuti contro una squadra che ora sta in un ottimo momento di forma, così come lo siamo noi. E quindi ci vorrà grande pazienza, equilibrio, testa e tecnica. Incontriamo realmente una delle migliori squadre internazionale che può vincere contro chiunque, e di questo ne sono convinto, per cui abbiamo grandissimo rispetto e anche un po' di curiosità di vedere, insomma, se noi abbiamo fatto dei progressi. Mi auguro che non sia la partita della stagione, perché vorrebbe dire che ce ne sarebbero poche altre davanti, no? Invece tutti noi ci auguriamo che ci possa essere ancora qualche altra partita ancora più importante. Pronto, prova? Ci siamo? Sì, ragazzi, ci hanno dato dentro con l'enfasi. Sì, sì, in maniera molto enfatica. Abbastanza adeguata, diciamo. Abbastanza adeguata. Max Nerozzi dalla Stampa, nostro amico. Ciao, Max. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Che facciamo? Pompiamo con l'enfasi? Non lo so, secondo me no, invece l'hanno fatto troppo poco Buffon e Allegri, che mi sono sembrati molto sì. nervosi, meglio 6 minuti di Klopp che un quarto d'ora di conferenza per Juventina, purtroppo. Sì, tu dici. No, decisamente, mi dispiace, ma è stato così. A me non è piaciuto neanche il fatto che tutti e due abbiano detto che non era la partita della stagione, invece Klopp abbia addirittura ricordato la partita del 97 a finale di Champions, invece secondo me questa è una partita che può valere la stagione, quindi sì. Io la penso così. La differenza è che Klopp sta pensando a salvarsi, anche se adesso ormai è praticamente fatta, la Juventus ha vinto il campionato, quindi. Sì, ma sai, io non credo molto alle conferenze stampa, sinceramente, nel senso che le considero spesso fuorvianti. È chiaro che è l'unico indizio che ci può essere il giorno prima di una partita così importante, quindi è giusto dargli conto e seguirle con la massima attenzione. Ma per te è la partita della vita, per la Juve no? Beh, ha ragione Buffon, ad oggi è la partita della vita, è chiaro, anche perché diciamo che Roma-Juve non è più la partita della vita, vista la distanza fra le due squadre, quindi è chiaro che quella di oggi è senza alcun dubbio la partita più importante, e poi lo sarà quella del ritorno di mercoledì fra 3 settimane, e poi però se va avanti la Juve ce ne saranno altre, su questo Buffon ha perfettamente ragione, insomma la Juve vuole tornare a pensare in grande, vuole tornare a pensare all'idea che non sia un ottavo di finale di Champions League il massimo della stagione. Certamente, stasera Max ho l'impressione che conosceremo diverse verità sulla Juventus, la condizione che non sembra brillantissima, ma questa sera via la maschera, la tenuta, i problemi di Vidal che qualche problema ce l'ha, e molte altre cose, quindi avremo la verità sul momento juventino. Secondo me, caro, sì, sulla Juve e sul calcio italiano, anche se siamo un po' ripetitivi, nel senso che Klopp, ti so prima che è stato molto, molto più chiaro in 6 minuti, perché ha detto la Juve ha grande qualità ma basso ritmo, noi invece andiamo veloce. Secondo me è un po' la differenza che voi stessi spesso ripetete, cioè vediamo se la Juve ha ancora reattività europea o se, come dice Capello, Cesena-Atalanta, che sono stati gli ultimi ostacoli, sono stati molto poco avvenanti. È chiaro che se la velocità di reazione è come con Cesena-Atalanta, buonanotte. E io penso che questa sia la chiave sostanziale, e dopodiché, come ricordavi, è vero anche che ci sono dei giocatori chiave che dovranno battere un colpo, Vidal dal punto di vista fisico, ma anche il signor Pogba, nel senso che se ambisce ad essere un top player europeo, bisogna che in queste partite è bravissimo, deve fare la differenza in queste partite. Sì, mi sembra che nell'ultimo mese Pogba, Vidal e Pirlo siano stati sottotono. Marchisio è l'unico che insomma viaggia mille in quel centrocampo ogni partita. Sì, sì, Marchisio sicuramente dal punto di vista della costanza di rendimento è il giocatore migliore dei quattro. È anche vero che dal punto di vista invece dei picchi di rendimento quando Pirlo è in giornata, o quando Pogba è in giornata, o quando Vidal è in giornata, Marchisio diventa il quarto. Insomma, diciamo, se Marchisio è il quarto dei centrocampisti in ordine di rendimento, è una grande notizia per la Juve. Intanto Marchisio è il suo da sempre, ed è un giocatore secondo me eccezionale. Lì in mezzo al campo la Juve è abbondanza, poi è ovvio che molto dipende dalle intermittenze. Pirlo è un giocatore che probabilmente è più intermittente rispetto a qualche anno fa per motivi anagrafici, però magari non ti fa più 10 squilli in una stagione, te ne fa 5, ma quei 5 li sceglie sempre molto bene. Non è un caso che abbia fatto i due gol della stagione a 5 secondi dalla fine del derby, sì, e l'altro giorno, l'altra sera, in una partita che era molto complicata. Io mi aspetto chiaramente molto da lui in queste grandi sfide. Sono le partite sue, quelle per i grandi campioni. Ma che problemi ha Vidal, Max? Vidal ha soprattutto problemi fisici che si trascina da maggio scorso, operazione al ginocchio, mondiale giocato in fretta e furia, ammaccato. Niente di comportamentale, direi, questioni di relazione. Si è dato un po' una regolata dopo l'episodio fatidico prima di Juve-Roma, però un giocatore così come lui, che fa molto affidamento anche sulla qualità fisica del suo gioco, un po' ha patito, insomma, ed è un grosso problema per la Juve. Dopodiché bisogna anche dire che sta giocando in un ruolo che non faceva da quando giocava nel Leverkusen, poi magari non è solo quello, però insomma. Però anche quello può incidere, mentre Morata ha definitivamente scavalcato Llorente, questo è un dato di fatto. Direi di sì, con la buona notizia che Llorente fa un gol importante nell'occasione che gli viene concessa contro l'Atletico, contro l'Atalanta, quindi come ho fatto dall'Atletico all'Atalanta, vabbè, misteri della fede, cioè a te. Però voglio dirti, anche questo, sai, poi alla fine può diventare uno stimolo per Llorente, per riuscire a provare, per almeno cercare di recuperare posizioni, ma in questo momento la gerarchia è evidente, quello che in qualche modo si vedeva già da fuori, che Allegri, perché gli allenatori hanno delle attenzioni particolari alle gerarchie, agli equilibri, magari ci ha messo un po' di più a metabolizzare, perché comunque Llorente dà un contributo alla squadra anche quando lo si vede poco dal punto di vista realizzativo, anche quando arriva poco al tiro, comunque è un giocatore importante nel fare la guerra in mezzo al campo. Però Morata mi sembra un'altra cosa. Allora ragazzi, prima di salutare Nerozzi, facciamolo subito, pronosticone, per gufi e non gufi. Mamma mia. Chi comincia? Nerozzi o tu? Non so. 2-1 per la Juve. Max? 2-1 per la Juve anch'io. Ah, allora siamo tutti d'accordo. 2-1 per la Juve. Sicuramente con gol, perché una difesa in alta, purtroppo quella Juve nelle ultime 4 partite sta concedendo tante, quella del Borussia è drammaticamente disattenta. Ti segnalo, scusa, piccola cronaca, che ci sono almeno 150 tifosi attorno al Puma del Borussia, qui in centro a Torino, che non è Real Madrid ma il suo fascino, perché quel che ha fatto negli ultimi anni, ci sono anche abbastanza italiani che sono simpatizzanti del Borussia. L'unica cosa, che sia tutto tranquillo, ma risulta di sì. Tutto tranquillo. Sono lì a prendere gli autografi e a fare le foto. Dai. Grazie, Max. A voi, ciao. A farsi selfie ormai. Sì. Manuele Palermo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buon pomeriggio. Complimenti della trasmissione. Io sto chiamando per una semplice domanda, perché io sono tifoso fino a un certo livello, non sono tifosissimo, però dico, siccome Palermo è la mia squadra, sono della mia città, volevo dirle questo: perché quando un Palermo che gioca una grande squadra, come l'altra volta ha vinto 3-0 con Napoli, non ha parlato nessuno e non ne parlano mai? Adesso il Napoli, che ha fatto qualche gol, l'hanno fatto sentire quasi tutta la partita. Cioè, quello che mi stranizza è questo: qual è il motivo? Tocca ripetere, non mi sembra che non si parli del Palermo, che tra l'altro è la rivelazione di questo campionato. Non mi sembra si parli poco di Dybala, è il solito discorso che può piacere, può non piacere. Sì. Ci sono, a livello nazionale, basti guardare gli ascolti televisivi di Sky e di Mediaset, sono abbastanza simili. Poi magari Mediaset è un po' più forte sul Napoli, Sky è un po' più forte sulle grandi del nord, ma gli ascolti sono quelli. Ci sono 5 squadre in Italia che hanno un bacino d'utenza nettamente superiore alle altre, le tre squadre Juve, Inter e Milan, poi il Napoli e poi la Roma. Poi ci sono tante squadre, fra cui il Palermo, la Lazio, la Fiorentina, adesso non voglio dire, ce ne saranno altre che mi sto dimenticando, che hanno un bacino d'utenza molto importante. Quando si fa un prodotto nazionale, quindi che deve parlare a tutti, ai 60 milioni di italiani, si tende a priorizzare su quella squadra lì, ma non mi pare che non si parli del Palermo. Io ho avuto Iachini in trasmissione la settimana scorsa e ripeto che insomma sia Tiki-Taka, per quello che può dipendere da noi, che tutti i convocati sono programmi dove l'accesso è libero, anzi dove invitiamo i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, e delle squadre, gli ascoltatori a parlare del Avellino, facciamolo. È ovvio che non apriamo con Empoli-Chievo, con tutto il rispetto per Empoli-Chievo, anche se Sarri sta facendo un campionato straordinario e meriterebbe. Io ieri non ho invitato Sarri, ho invitato Sarri e Maccarone e non potevano, cioè non so come dirti, è così. Detto questo, complimenti al Palermo che sta facendo una stagione meravigliosa. Dybala è un grandissimo giocatore, Iachini ha dimostrato che tante volte ci portiamo delle etichette dietro proprio per pigrizia veramente stupide. Cioè Iachini sembrava uno che in Serie A non poteva allenare, sembrava uno perfetto soltanto per fare l'allenatore provinciale veramente in di Serie B e invece sta dimostrando non solo che può fare la Serie A, ma che la può fare con una qualità estetica del calcio da grande allenatore. Abbiamo il traffico, c'è chi scrive: Vidal dopo i mondiali ha avuto problemi, quindi non si è potuto allenare bene, come al solito avrei la mortadella sugli occhi. È vero, non si è potuto allenare bene, però magari, qualche problema era un po' di mortadella non sarebbe male, zona, esatto. Relazionale alla Juventus ce li ha avuti. Traffico. Assassini furtivi camminano nell'ombra, creature leggendarie esercitano poteri impareggiabili, attaccano in silenzio, penetrano il buio, ispirando terrore e superstizione. Questi guerrieri spaventosi sono i gufi, la morte con le ali. Tutti convocati. Siamo stati lasciati da soli, quindi non garantiamo più niente a nessuno. Se non vedremo una tutela a 360 gradi nei confronti del Parma, noi non garantiamo niente. Quindi Tavecchio ieri ha fatto un'intervista dove ha detto il Parma sicuramente giocherà, mi sento di dire che forse non ha capito bene qual è la situazione qua, quindi è bene che magari che la venga a controllare di persona e che riesca a capire cosa veramente abbiamo passato noi in questi mesi. Questo capitano Lucarelli sul fronte Parma, alto mare sulla via Emilia. Ieri si è detto andiamo a fare la trasferta a Genova in macchina, il corteo delle macchine come si faceva da bambini quando si giocava, preziosi, ma magari vi ospito io, insomma una bella cacciata. C'è un mix di bei sentimenti molto romantici e però anche di squallore in tutta questa vicenda, sì. Ovviamente, nel senso che la dignità dei giocatori del Parma è fuori discussione, il fatto che possano anche eventualmente così come tutta una serie di proposte, c'è stata quella di Ferrero stamattina, Lucarelli l'ha ringraziato pubblicamente, l'ha già fatto ieri sera a Tiki-Taka per esempio. Certamente, insomma, ci sono delle cose belle che stanno nascendo in tutto questo schifo che c'è del Parma. Fiori, no? Nelle tane, sì. Ecco, però poi il problema strutturalmente rimane. Il Parma ha una sola possibilità per evitare di sparire, cioè per poter cominciare l'anno prossimo quasi come se nulla fosse dalla Serie B. Di fallire. La mia fonte Capuano, che sai da questo punto di vista è un professore universitario, mi ha spiegato benissimo quello che deve fare il Parma. Deve non saltare, cioè deve arrivare fino alla fine della stagione, giocare fino all'ultima giornata regolarmente, in qualche modo, quindi bisogna trovare delle risorse. Deve fare un fallimento pilotato, quindi con una cordata magari capeggiata dal sindaco, una serie di imprenditori che si faccia carico almeno dei debiti sportivi, che dovrebbero essere nell'ordine di 30-40 milioni di euro, che sono gli stipendi ai giocatori, tutte le cose che servono per evitare sanzioni e per poter cominciare il campionato in maniera regolare. E poi per tutto il resto ovviamente ci saranno le normali procedure fallimentari. Però insomma ecco, una strada piuttosto stretta, soprattutto perché è chiaro che se in questo momento non hai nemmeno i 20-30 mila euro che ti servono per pagare gli steward dove vai? Da qui alla fine del campionato diventa lunghissima. C'è anche questa idea di un fondo di garanzia da parte delle altre squadre per permettere al Parma di concludere la stagione, però il presidente del Cagliari, Giulini, ieri ha detto delle cose in proposito, non è tutto chiarissimo. Io stasera, parlando con qualche dirigente dell'Inter, ho avuto un'anticipazione di quello che potrebbe essere l'idea per portare il Parma a concludere il campionato. Qual è? Però di ufficiale, ma sì. Io di ufficiale non so nulla, questo anche mi sembra molto strano, perché a me come massimo esponente del Cagliari Calcio non mi è stato ancora detto nulla. L'unica cosa che so sono dei rumors di corridoio che mi sono arrivati stasera dai dirigenti dell'Inter al Sant'Elia, e questo è molto grave, certo. È molto grave. Questo era Giulini, presidente del Cagliari. Vittorio da Ferrara, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo fare... Anzitutto complimenti per la trasmissione. Volevo fare un commento su come viene come vengono commentate, scusate il bisticcio di parole, le partite in televisione. Sì. Soprattutto il modo in cui viene urlato quando si fa gol. Cioè, io sono un anziano giocatore, un anziano calciatore, appassionato di calcio, però questo modo di rappresentare, secondo me, è un po' troppo, eclatante, cioè il modo che le persone si autocaricano. È un po' fastidioso, ecco, volevo soltanto che magari far presente questo, se poi volete dibatterlo, sono... sono un discreto urlatore, quindi se vuole ma è vero, è vero, l'altra sera l'altro urlava come un pazzo tutti e due i gol. Sono ovviamente scelte e gusti. Freddi come Beppe Viola, ecco. Come gli altri. No, Beppe Viola in realtà non era tanto freddo, era diverso, diciamo, lo stile, anzi molto ironico, vabbè, però insomma, al di là di questo, io credo che poi il telecronista in qualche modo nella partita ci mette dentro anche un po' della sua personalità e del suo carattere e della sua passione per il calcio. Ci sono sicuramente telecronisti che urlano un po' di più, telecronisti che urlano un po' di meno, che fanno più enfasi, che fanno meno enfasi, e l'importante secondo me è essere intellettualmente onesti, cioè non saprei recitare, però ecco, confesso che tante volte l'emozione della partita mi prende, certo. e mi porta lontano, e posso capire che ci sia qualcuno che preferisce, magari parlo per me, ma insomma siamo in parecchi in questa categoria, posso capire che ci siano altri che preferiscono un commento un po' più asettico. Ci sono anche quelli però che se non urli si arrabbiano, cioè sono quelli che, oppure quelli che si casano, che si scaricano la suoneria col gol, ecco, per cui il suo punto di vista è assolutamente rispettabile. Non saprei neanche dirle, non è stato fatto un sondaggio a livello nazionale. Sicuramente negli ultimi anni tutto è diventato più spettacolare e ci siamo fatti prendere dalla passione, però insomma io mi sento di poter dire che nel mio caso, dei colleghi che conosco, è una passione vera, cioè non è una finzione, ecco. La partita è una figata mostruosa, diciamocela apertamente, non vedo l'ora che sia giovedì alle 21.05. Silvano Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo fare una riflessione sul discorso della violenza legata allo sport in generale, no? Cosa che vedo accade nel calcio frequentemente, ma solo in Italia, e all'estero meno o quasi no. Anche qui, perché, come mai? E l'altra cosa, appunto, legata anche a sport che sembrano violentissimi, tipo l'hockey per esempio, dove sembra che si ammazzino di botte. Però finita la partita tutti amiconi e tutti compagnoni. L'automobilismo, dove i tifosi della Ferrari, se vince la McLaren, applaudono il pilota della McLaren, dove i tifosi di Valentino Rossi, se vince Marquez, lo applaudono, ma non si accoppano, insomma non disfano, certo. Gli autodromi o altri posti. Una riflessione, ecco. Forse in Italia siamo troppo permissivi. Siamo permissivi, però anche qui bisogna fare dei distinguo su quelli che vanno a vedere Valentino Rossi piuttosto che quelli che vanno a vedere il solito rugby, che arrivano in molti, bevono e si divertono e nient'altro. Insomma, c'è anche una componente sociale, io credo, no? Sì, c'è una componente sociale, e guarda, ha fatto Mughini sera questo discorso. Questo è un mistero del calcio, ma in qualche modo è anche un effetto collaterale della forza del calcio, della trasversalità del calcio, con tutto il rispetto per gli altri sport. Il rugby è uno sport bellissimo, la finale del mondiale di rugby è un grandissimo evento, ma è un evento che non è così mondiale come la finale del mondiale di calcio, certo. Non c'è da discutere su questo, insomma. E sicuramente non solo in Italia ci sono problemi, spesso ci sono problemi e dobbiamo vigilare meglio, eccetera, però insomma alla fine questo è un grande fatto popolare, e si porta dietro delle controindicazioni e degli effetti collaterali pesantissimi in certe circostanze. Senti, ma tu hai timori per il ritorno della Roma a Rotterdam per la partita di Firenze? sono anche, io, poi sentiamo anche io voci. Timori, beh, insomma, sicuramente la partita della Roma a Rotterdam è una partita a rischio, su questo non ci sono dubbi. Poi penso e spero che le cose andranno in maniera molto diversa. Spero e penso che non ci sarà voglia di stupide vendette. Qui l'arma dell'ironia è sempre la migliore, no? Ho letto un tweet l'altro giorno che l'ironia migliore sarebbe riattaccare un orecchio all'autoritratto di Van Gogh, ma ovviamente è una battuta. Insomma, spero veramente che tutto vada liscio. So che ci sono tutta una serie di avvertimenti, di percorsi per stare tutti insieme, insomma, sentivo ieri Mangiante di Sky che ne parlava, insomma, bisognerà seguire tutta una serie. Certamente dal punto di vista così del turista, perché non è la trasferta, no, più serena, dove dici vado a fare una birra in piazza la sera prima in allegria. Però poi io sono convinto che innanzitutto ci sarà un livello di spiegamento delle forze dell'ordine di un certo tipo, no? Poi tensione. Molto spesso quando c'è una grande tensione preannunciata le cose, grazie a Dio, non succedono. E poi c'è, questo duole dirlo, anche un elemento legato al fatto che in quei paesi lì la certezza della pena è un po' più ampia, Senti, prima di chiudere l'ora, GR, poi torniamo con Timosso, il derby di Genova, e poi aspettiamo Riccardo Bigon. Prima di tutto questo vi lascio su questo tema con le parole di Nardella, sindaco di Firenze, prima dell'arrivo del Tottenham e dei suoi tifosi. Mi sembrano misure corrette, adeguate, oltre anche a quelle di restrizione per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di alcol, saranno decise dal COSP. È chiaro che le città d'arte che hanno squadre nelle competizioni internazionali sono molto esposte, non solo per l'incolumità dei loro cittadini, ma anche per lo straordinario patrimonio culturale. Quindi bene tenere il livello di attenzione massimo. Tutti convocati. Eccoci qua, le 15.02, buonasera, bentornati, questa è Radio 24, ho preso possesso dello studio. Getta, dove è andato? In bagno? Dove è andato? Getta? C'è già Timossi, ci scrivono che ovviamente, che insomma, urliamo, ci sono i due partiti, quelli che vogliono che si urli durante le telecronache e quelli che invece vogliono abbassare il volume. Negli ultimi anni pure un passaggio orizzontale di 2 metri per certi telecronisti è fantastico, incredibile, eccezionale. Ecco, è arrivato Genta, niente, il mio momento di dominio assoluto sulla trasmissione è durato 2 minuti. Però c'è Timossi, buonasera Timossi, come va? Non c'è Timossi. Non c'è Timossi. Vedi che proprio non sono capace. Mi boicottano, prima hanno detto ti metto Timossi subito. De Luca mi ha detto essendo Timossi subito. Ricordiamo il numero. Ricordiamo il numero. 240024. I messaggi invece? I messaggi 349-238-6666. Sono sempre gli stessi contatti da 16 anni a questa parte. Benissimo. Come lo vedi il derby di Genova comunque? Lo vedo bellissimo, scusa la banalità. È veramente, prima l'ascoltatore diceva il derby più bello del mondo, non so se è il più bello del mondo o il più bello d'Italia. È un derby bellissimo per una serie di elementi. Uno è il fatto che Genova è una città grande ma non grandissima, e in una città così mediamente c'è una squadra. E invece a Genova ce ne sono due, quindi questa due e oltretutto di grande storia, di grande tradizione. Chiaramente il Genova è nato prima, poi per arrivare alla Samp, insomma la città partecipa anche durante l'anno, anche nei giorni feriali durante l'anno, vedi i ragazzi sui motorini con i caschi, col grifone o col bacicce, insomma. Quindi è straordinario tutto questo, sì. E poi lo stadio aiuta, ha mille difetti, lo sappiamo, è anche piuttosto insicura come Italia-Serbia aveva dimostrato, perché è in centro, ha poche vie di fuga, però dal punto di vista della partita è uno stadio dove si vede ancora molto bene, perché è uno stadio all'inglese, sì. Grandi coreografie, grandi gradinate, grande civiltà, insomma a me piace la matta. E speriamo che non piova. E speriamo che piova. Che non piova, Giorgio De Luca l'ha chiesto. Lo dico per tutto il giorno, ma almeno per una notte sola. Sentire il meteo di Genova? Sentiamo il meteo di Genova. Sentire il meteo 14:30. Ce l'abbiamo il meteo di Genova. Sentiamo. Edoardo Ferrara, meteorologo di Trebi Meteo. Qual è la previsione meteorologica per oggi su Genova alle 18:30, quando si recupera il derby della Lanterna saltato per il maltempo di sabato? Dunque, nel corso del pomeriggio avremo ancora delle residue piogge su Genova per la perturbazione giunta nelle scorse ore. C'è da dire però che in serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi e quindi probabilmente alle 18:30 potremo avere ancora residue deboli piogge, se non saranno già cessate, però entro la fine della partita i fenomeni dovrebbero essersi esauriti con anche delle schiarite. Quindi non ci sono rischi questa volta? Non dovrebbero esserci rischi, perché il grosso della pioggia è atteso tra la mattinata e il pomeriggio di oggi, quindi in serata i fenomeni dovrebbero attenuarsi e non dovrebbero esserci più rischi. per parlare di Muriel. Io, l'avvocato Romei e Osti, Carlo Osti, che andiamo lì, parliamo di Muriel, parlo con il presidente Pozzo, poi dice arriva, prendiamo lo stesso appuntamento all'albergo a Vittorio Sena. E mentre che stiamo lì a aspettare, aspetta, io mi ero stancato, esco fuori dall'albergo e dico Antonio Romei, che è il mio braccio destro, un avvocato, e dico Antonio, è arrivato tu. Perché vedo un signore di colore, con la maglietta tutto così, che scarpa da ginnasio, vado lì e lo abbraccio. Era un cameriere d'albergo. Si è parlato molto, nonostante la mancata partita, di Samuel Eto'o, perché l'ultima versione è che si sia rifiutato di andare in panchina questa sera. Volevo il tuo commento da capitano. Oltre che il mio commento, ti do la verità sulla situazione. Ha avuto un risentimento muscolare e poi il mister ha deciso di tenerlo fuori, quindi non c'è nessun caso Eto'o. Sarà vero che non c'è nessun caso Eto'o? No, ma il risentimento muscolare ci può anche essere, sicuramente. All'allenamento, no, voci sul corpo. Adesso, al di là è chiaro che c'è una componente voyeuristica, aneddotica, uh-huh, molto interessante, e della quale ci aggiornano tutti i giorni gli inviati che seguono la Sampa Bogliasco. C'è una realtà invece più larga sul rendimento e sul contributo che questo giocatore può dare alla Sampa. Ecco, questo lo possiamo già dire. Cioè, dopo 20 giorni possiamo dire che per ora l'impatto è zero, anzi, forse per oggi, fino ad oggi, stanno negativo. Poi Eto'o è uno che, se decide di giocare a pallone in un certo modo, può fare la differenza in qualsiasi momento. Però mi sembra che ad oggi abbia portato più problemi che ne abbia più portati che risolti. Sì, questo non ci sono dubbi. Anche, ma assolutamente. Poi, con Mihajlovic non sembrano prendersi molto. Poi oggi addirittura c'è chi si spinge molto oltre, dicendo che i Cosmos sono pronti a raccogliere la rescissione del contratto per Eto'o. Tra parte devi anche saper gestire le superstar, no? Ma questo sicuramente, i giocatori non sono tutti uguali, su questo non ci sono dubbi, ed Eto'o chiaramente alcuni privilegi in carriera se li può anche essere guadagnati, dipende però da quello che decide il mister, perché anche il mister si è guadagnato il privilegio di poter, di poter fare le sue scelte la prima parte della stagione, di poter fare le sue scelte. Giampiero Timossi che dirà? Lo sentiamo. Ciao Giampiero. Come stai, no, Timo? Però hanno messo il talento. Piove, stai bene? Hanno messo i teloni oggi. Ho messo i teloni? Piove, ma hanno messo i teloni. Perché hanno pagato? Ma no, non hanno pagato. Comunque, cioè, non aveva senso non mettere i teloni, perché le società erano in ritardo con i pagamenti. Che vantaggio c'è stato? C'è stato il vantaggio che comunque non si è giocata la partita. Non credo che sia un vantaggio per nessuno. Ma questa storia dei mancati pagamenti, che vuol dire? Vuol dire che tutte le società, no, però molte, più di meno, molte società hanno comunque degli equilibri delicatissimi, e la speranza, non credo, anzi, non ho notizie che sia la situazione di Genova e Sampdoria, ma la speranza è che gli equilibri resistano, poi improvvisamente saltano e accade quello che è accaduto ad esempio a Parma. Esiste, ne stavamo parlando con Pardo, un caso Eto'o? Sì, esiste un caso. Esiste. Esiste un caso Eto'o, bastava guardare Eto'o all'ingresso negli spogliatoi. Mi ha colpito una cosa che diceva sempre Nedved. Nedved era molto arrabbiato perché i giovani compagni di squadra entrano negli spogliatoi con quelle enormi cuffie, che anche Pardo giri con quelle cuffie. Ma che giro con le cuffie? No, io l'ho visto. Ma che non è vero, ma non ce l'ho proprio le cuffie. Poi in parte io mi perdo qualsiasi oggetto. Pardo gira, infatti sono grosse perché bisogna almeno non le perdi. E quello lì è un segnale, aveva ragione Pavel, quello lì è un segnale di un giocatore che non ha nessuna voglia di confrontarsi, di parlare, di dialogare con i compagni. Detto questo, Eto'o era stato promesso che sarebbe arrivato a Genova, che avrebbe non soltanto giocato, ma che su di lui si sarebbe mossa tutta la squadra. Queste erano le promesse del presidente della Samp Ferrero, che ha un progetto, e secondo me è giusto che comunque, essendo il presidente, porti avanti questo progetto. Questo progetto Eto'o è il punto centrale, non è la stessa cosa per Mihajlovic. E quindi io credo che alla fine della lunga querelle prima del derby di sabato si sia deciso di trovare una soluzione diplomatica, cioè facciamo vedere che Tosta veramente male, non mandiamolo neanche in panchina perché sarebbe stato umiliante per il campione, e mandiamolo in tribuna. mi risulta che in questi giorni l'agente italiano di Ettore Vigorelli sia stato a Genova, abbia parlato a lungo con il presidente. Credo che questo significhi una parola soltanto, insomma, bisogna trovare una soluzione a questa vicenda. Se non si troverà una soluzione, non credo che Ettore sarà ancora a lungo a Genova, e credo che insomma potrebbe davvero andare via. Dunque sono veramente ferri corti. Tra l'altro oggi risulta nella lista dei convocati, ma non si capisce bene se andrà in panchina oppure no. Ma io credo che si troverà la solita soluzione, che andrà in tribuna anche perché farà meno freddo. Sì, certo. 9 e tira un gran vento a Genova, insomma. Certo. Condizioni meteo, una volta eravamo una città sempre col sole, adesso Adesso due gocce di pioggia sembra Amsterdam. Però ci sono i teloni. Ci sono i teloni. Voglio sottolineare perché questa cosa dei teloni mi ha particolarmente colpito. Bene, non è stata una bella cosa l'altra sera, perché comunque poi sì, sicuramente la quantità di pioggia che è caduta era tale che probabilmente non sarebbero bastati nemmeno i teloni, però alla fine il pensiero, se vuoi anche un po' populista, di pensare che questo paese non impara mai dai suoi errori, che una città drammaticamente segnata da tragiche alluvioni negli ultimi anni non riesce neanche a immaginare l'ipotesi, questo è allucinante. Poi è avvenuto due giorni dopo Piazza di Spagna, uno mette le cose in fila, ci mette dentro anche Parma e si dà una grande pistolettata, si deprime, no? Ecco, è veramente umiliante questa roba qui, dai. Sì, a collezione delle pessime figure che abbiamo fatto nel giro di... Ragazzi, sono teloni, stiamo parlando di pezzi di tela da mettere su un prato per organizzare degnamente un evento. Poi è chiaro che se piove come pioveva l'altra sera, i rischi ci sarebbero stati comunque, però magari si cominciava a giocare, no? Adesso i teloni poi verranno tolti, perché 2 ore e mezza prima della partita bisogna toglierli, e quindi insomma. Però dicono che problemi in meteo non ce ne dovrebbero essere. Senti Giampiero, per venire, Genoa arriva meglio a questa partita, tra l'altro Borriellone convocato. Mi pare che il Genoa abbia fatto il percorso inverso a quello della Samp, no? Con Eto'o, nel senso che Borriello è stato parcheggiato, messo in un angolo, gli è stato detto prenditi 20 giorni per recuperare e poi, no? Però è una situazione completamente diversa, no? Borriello ha fatto cose grandissime al Genoa con Gasperini, e quindi sa che se vuole davvero continuare ad essere un attaccante di alto livello, il Genoa di Gasperini sono quasi un passaggio obbligato. Io credo che comunque neanche Borriello partirà titolare, credo che le formazioni di fatto resteranno le stesse del derby non giocato di sabato, le stesse formazioni annunciate sabato, quindi però come diceva giustamente Pierluigi, la situazione tra Eto'o e Borriello è diametralmente opposta, ma anche qui comunque è anche stata questa volta completamente diverso il rapporto tra, perché poi è di questo che stiamo parlando, tra allenatore e presidente. Certo. Insomma, Eto'o sta in mezzo a delle scelte di una società che ha comunque fatto una campagna acquisti fantasiosa, chissà, magari pure indovinata, in questo momento i risultati dicono di no, purtroppo per la Samp. Quindi dall'altra parte c'è una società che comunque ha cambiato, ha venduto tanto, per Genoa ha cambiato, però l'ha fatto probabilmente con maggior sintonia tra Gasperini e tra l'allenatore. Anche se poi ricorderete, c'è stata una situazione molto difficile perché è stato venduto subito Piniglia, si è poi fatto male Matri, e quindi a quel punto lì il Genoa non aveva nessun attaccante e nessuna prima, e ha partito questa situazione, no? Però poi è stata trovata una soluzione, Matri se n'è andato e Nianga sta dimostrando di essere un attaccante. Sì. Io credo che questo significa anche qualcosina di più, che Gasperini è un allenatore vero, o comunque un allenatore con maggiore esperienza e maggior capacità di far crescere i giocatori rispetto a quanti non siano stati gli ultimi allenatori, i giovani allenatori del Milan. Sì, quello è il suo posto d'elezione. Grazie Giampiero, buon derby. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Derby. Facciamo al volo un paio di ascoltatori e poi ci colleghiamo con Napoli. Ci chiedono di questa polemica col Celtic, io non ne so poco, non voglio essere evasivo, ma ne so poco, quindi se ci scrivete per SMS cosa vi riferite, una politica del Celtic sugli interisti, adesso cerco di capirne qualcosa in più in momento multitasking. Intanto gli ascoltatori. Prego. Alessandro Napoli, Giuseppe Palermo e poi abbiamo un ospite. Alessandro, dica. Pronto? Pronto? Dica. Grazie per la convocazione. È emozionato perché è la prima volta che parlo con voi. Non preoccuparti, siamo emozionati noi. Vai tranquillo. Volevo solo rispondere. quello, sei un tifoso juventino che con 20 milioni di euro per acquistare un centrocampista non si rifanno le strade a Napoli. Allora, con questo cosa voglio dire? Che praticamente loro hanno una grossa squadra, avevano una grossa dirigenza, Boniperti, Agnelli, avvocato, ma non avranno mai una grande tifoseria, perché sono gobbi, punto. Vabbè. A prescindere, sembra un po' un pochino di parte come ricostruzione. No, mi sembra invece che insomma lo stadio della Juventus ogni volta che gioca sia una bolcia, sia uno spettacolo. La Juve ha una tifoseria ovviamente nazionale, trasversale, quindi è proprio è logico che ha una tifoseria che magari in certi momenti è un po' meno unita, però poi lo Juventus Stadium, secondo me, la differenza la fa. Come la Juve, no? La squadra che ha più tifosi in Italia, non ci sono dubbi. Questi tifosi, a differenza di altre città, per esempio Roma ha moltissimi tifosi, ma il 90% dei tifosi della Roma, o l'80%, non lo so, sono dentro al grande raccordo anulare, sono romani. È abbastanza raro trovare dei tifosi romanisti fuori da Roma o dei tifosi laziali fuori da Roma. La Juve invece ha questa forza di avere tifosi ovunque in giro per l'Italia, quindi magari... Però insomma, francamente, quando la Juve giocò a San Siro, ce lo ricordiamo, per le coppe, riempì lo stadio. Certo. Forse avrebbe più tifosi se giocasse, diciamo, lì nel triangolo fra Piemonte, Liguria e Lombardia. Sicuro. Che se giocasse ci sono dei feudi, quindi... tradizionalmente juventini, l'Emilia Romagna ad esempio, Giuseppe Palermo, anche la Sicilia, Giuseppe da Palermo, magari è tifoso della Juve, buongiorno. No, per carità, io sono tifoso del Palermo. Per carità, Dio ce ne scampi. Penso che sia vero che le cinque squadre che io avevo citato prima siano le più seguite, ma è anche vero che hanno questi bacini di utenza vengono alimentati dal fatto che si parla soltanto di loro. Ma questa è una riflessione che non è da loro. Amico mio, no, ci sono gli ascolti sono pubblici delle partite, non te lo dico. Sì, ma per esempio anche il Palermo quando va in trasferta trova sempre tifosi. Ma certo, ma il Palermo è una grandissima. Palermo è una grandissima. Non sto facendo un discorso di giusto, di bello o di brutto. Ti sto dicendo numericamente, ma hanno fatto anche delle indagini i sondaggisti sul numero di tifosi che ci sono in Italia. Ci sono cinque squadre, soprattutto le tre del nord, ma tantissimo anche il Napoli, un po' meno la Roma, ma comunque staccata dalle altre, che hanno più tifosi. Che hanno quindi un bacino di utenza diverso, se tu guardi i giornali nazionali, parlano più di quelle squadre che di altre, ma non è veramente, è chiaro che si dovrebbe parlare di Empoli molto di più di quanto se ne parli, perché l'Empoli sta facendo cose eccezionali. Però io quello che dico, che è anche un invito a queste squadre qui, è venite, parlate, raccontatevi, cioè abbiate un approccio, perché soprattutto quando ci sono delle belle imprese da celebrare come quella del Palermo di quest'anno, a me fa piacere, cioè io vorrei avere un ospite del Palermo ogni settimana, Dybala mi piacerebbe averlo. Basket. Noi abbiamo Riccardo Bigon. Sì, però sì, forse ho tolto la parola in maniera un po'... Non so se c'è ancora l'ascoltatore da Palermo. No, non c'è più. Riccardo Bigon, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Del più Napoli parla. E parla con noi, con Riccardo Bigon, l'architetto di questa squadra. Siete dentro da tutte le parti, adesso. Secondo posto, Europa League già fatta, fate pure i scongiuri, ma non mi sembra sia il caso. Coppa Italia, inutile chiedere le priorità, però al secondo posto adesso ci credono proprio tutti, o no? Ma noi siamo abituati a ragionare un attimo in maniera un po' diversa, insomma ci piacerebbe che fosse così anche in maniera forse un po' più generale, cioè quello di pensare di lavorare bene tutti i giorni, lavorare bene sia nella programmazione di un'annata ma anche proprio quella di una settimana e poi tirare le somme. Normalmente se lavori bene raccogli qualcosa di buono, è quello che sta succedendo in questi anni e soprattutto con Benitez, quindi insomma al di là di quello che qual è l'obiettivo a cui punti, credo che sia sempre importante concentrarsi a puntare di lavorare bene oggi per vedere domani cosa succede. C'è un caso Benitez, cioè si sta aspettando ancora una risposta di Benitez, può il Napoli aspettare a lungo una risposta di Benitez per costruire il futuro? Ma mi sembra una domanda un po' fatta per cercare di trovare un titolo. Io non credo che sia importante per noi, ma anche per la gente che segue la nostra squadra, andare alla ricerca del caso. Noi credo che possiamo garantire ai nostri tifosi una qualità di lavoro e di conduzione tecnica che sta portando avanti questo gruppo con Benitez in testa. Poi quello che sarà nel futuro, credo che la cosa fondamentale è che ci sia una strada segnata e un club solido, certo, con le idee chiare, che non ha problemi di cosa farà domani. Questo il calcio di oggi, certo, forse è già un grande risultato. Questo c'è sicuramente, insomma. Però le ultime due sessioni di mercato, Bigon, sono state un po' diverse, ce le racconta un po'. A me sembra che legittimamente quest'estate voi abbiate aspettato, come fanno tantissime squadre, il preliminare di Champions League. Ricordiamo, il Napoli è stato anche sfortunato perché ha beccato la peggiore delle avversarie possibili, che era l'Athletic Bilbao, ed è andata come è andata. Mi sembra che nell'ultima sessione di mercato vi siate mossi invece con un anticipo, con una sfrontatezza molto diversa. È così? Ma noi siamo, insomma, storicamente un'organizzazione che si muove abbastanza in anticipo. Le nostre squadre alle partenze dei ritiri sono quasi sempre state ultimate del tutto, se non, insomma, in alcune piccole cose, ma comunque anche nell'anno in cui è andato via Cavani e con l'introito di Cavani abbiamo preso 8 calciatori e abbiamo presi tutti quanti o all'inizio del ritiro o poco dopo che era iniziato, quindi comunque ci muoviamo sempre con una certa velocità. Poi è ovvio che ci piace a tutti quanti parlare di gestione economica corretta, di fair play finanziario, poi però bisognerebbe comprare 30 giocatori l'anno e farlo a qualsiasi cifra in qualsiasi momento. Normale che il nostro, che è un club gestito con dei principi di fair play, segue anche gli andamenti che sono quelli economici, quindi è normale che se fai delle cessioni importanti hai determinati introiti, se hai una qualificazione Champions in tasca hai determinati introiti, altrimenti devi fare i conti con quella che è poi la tua realtà, il tuo fatturato e la garanzia che devi dare ai tifosi di restare competitivo e di cercare di migliorare ogni anno. Conferma che avete detto di no a molte squadre, 5-6 squadre per Zapata? Ma sono sicuramente di più, perché è stato un calciatore molto, molto richiesto in questi 2 anni, però d'altra parte è normale. Noi oggi andiamo a cercare il centravanti, inteso classicamente parlando, cioè dell'uomo di struttura fisica che faccia punto di riferimento lì davanti, e cerchiamo in Italia uno meglio di Duvan Zapata, sinceramente facciamo fatica. Non è facile, questo, sono d'accordo. E questo in Europa ovviamente si sa, e tra l'altro lo si vede spesso in panchina, e uno dice, beh, non è che per caso te ne vuoi privare, e quindi magari hai delle richieste che poi noi non abbiamo mai accolto, perché crediamo molto nel ragazzo. E sì, anche se per lui deve essere difficile stare di vivere dietro ai Wayne, no Pier? Beh sì, abbastanza complicato, i numeri sono dalla sua parte, perché ha una, un quoziente gol per minuto molto interessante. Dove si può migliorare questa squadra che già, insomma, è cresciuta molto? Dietro? Ma io mi dispiace non rispondere alle domande in maniera diretta, però se oggi, che siamo a questo momento della stagione, mi viene chiesto cosa sarà da fare nell'anno, nel prossimo futuro, la mia risposta è non mi interessa, perché oggi mi interessa sviluppare al massimo quello che abbiamo in casa, cercare di tirar fuori il più possibile da questa stagione, vincere titoli, che alla fine è quello che in questi anni comunque siamo riusciti a fare, ed è, non è una cosa così automatica, banale, portare certo a casa dei titoli rispetto a molte squadre, che magari ovviamente non è che tutti si può vincere, quindi qualcuno vince un titolo, qualcuno non lo vince, e noi cerchiamo di portare qualcosa a casa, e perciò la mia concentrazione massima è in quello che c'è oggi, che è una squadra di altissimo livello. Mi tolgo una curiosità, è una mia sensazione che ho avuto dall'esterno, ma è vero che qualcosa è cambiato dopo la vittoria con la Juventus di Doha, cioè che il Napoli abbia trovato lì, avendo già messo autostima ma maggiore serenità? Ma è normale che le vittorie danno una mano. Il nostro è un lavoro difficile dal punto di vista interno, nel senso che organizzare tutta una struttura che possa produrre calcio ad alto livello non è semplice, ma dal punto di vista esterno è ancora più difficile, nel senso che il nostro mondo viene condizionato per forza, non è una scelta, ma molto anche da quello che è il fuori del centro sportivo, e quindi è normale che la vittoria ti crea anche un ambiente fuori molto positivo che poi si riflette all'interno, e quindi normalmente le squadre che vincono tanto è perché hanno una tradizione vincente, cioè vincono spesso, il che li aiuta a vincere nel futuro, e la vittoria di Doha non è che sia stata una svolta clamorosa, però sicuramente ha contribuito a dare forza a questo gruppo, a credere nelle, ancora di più nelle potenzialità, eccetera, eccetera. Però Un altro investimento importante è quello, è stato quello per Rafael, no? Un giocatore al quale credete molto, che vive adesso insomma un po' di ballottaggio, anche alla luce di qualche errore che c'è stata anche qualche grande prestazione, ad esempio a Doha. Come, come sta il ragazzo? E insomma, chiaramente la scelta è solo di Benitez, ma è un momento in cui bisogna stargli un po' vicino e ribadirgli la stima e l'affetto che c'è nei confronti di questo portiere? Ma guardi, noi abbiamo la fortuna di vivere al campo, perché comunque abbiamo gli uffici a fianco ai campi di gioco e stiamo, io sto con Benitez e con la squadra praticamente tutti i giorni. La nostra vicinanza la sentono i calciatori, la sentono tutti quelli che lavorano qui, e Rafael non è diverso dagli altri ragazzi, a quelli che magari giocano meno e sono ovviamente meno contenti di quelli che giocano di più, però questo non vuol dire che non sentano la fiducia di un ambiente che ha investito su di loro e che ha fiducia per il futuro anche su Rafael. Però nella crescita di un ragazzo giovane che arriva in una squadra importante ci sta anche un momento di difficoltà che poi va superato con il lavoro, l'abnegazione, la professionalità, tutte caratteristiche che non mancano a Rafael. Grazie. Bocca al lupo. Bigoni, in bocca al lupo. C'è il tassista l'altro giorno che ha chiamato per dire che in effetti da Ferugli per Baggio erano iniziati in piazza Savonarola, ti ricordi? Quindi hai ragione tu. Poi dice che si sono trasferiti dopo in piazza Savonarola. Però l'origine, in piazza Savonarola, mi ricordavo piazza Savonarola dove c'era la sede della società e basta, insomma. Sicuramente hanno ragione, ci sono vari ascoltatori che ci scrivono appunto l'importanza dei bacini di utenza, ma per carità, insomma, Palermo è meravigliosa, ma ha un potenziale di tifosi eccezionale. Quella era un'analisi semplicemente sul prodotto nazionale, su quello che trovate sulla prima pagina della Gazzetta, tanto per fare un esempio. Un giorno facciamo così, fondiamo un giornale totalmente democratico, una pagina per ogni squadra. Vediamo c'è qualcuno che ci mette i soldi in un giornale così. Prova a vedere, cerca c'è qualcuno che ci mette i soldi. Ciao Pier, ci vediamo domani. Ciao. Domani. Grazie Pierluigi Pardo. Gianmarco Ferronato in regia, Giorgio De Luca, nostro autore, Daniele Bonamici in redazione. A domani. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, eccolo!